storie italiane. Il letto magico. Molto tempo fa, in un posto chiamato Ambertown, viveva il principe Adam. Era un grande sovrano e un principe amorevole. Era senza paura e generoso allo stesso tempo. Tutti nel regno di Ambertown amavano il loro principe. Una volta, mentre si dirigeva verso un altro regno, attraverso la foresta, il principe Adam si separò dai suoi soldati. Dopo aver cavalcato il suo cavallo per un po', Adam decise di riposare sotto un albero. Sentendosi affamato, tirò fuori alcune fette di pane dal suo sacco. Rotto il primo pezzo, vide una formica strisciare fuori. Adam mantenne silenzioso il pezzo e raccolse un'altra fetta. Ora c'erano due formiche che uscivano dalla seconda fetta. Mise la fetta verso il basso e nella terza fetta trovò tre formiche. Questo andò avanti fino a quando si rese conto che le formiche avevano preso tutto il suo cibo. Ma invece che essere arrabbiato, il principe Adam sorrise. Forse avete bisogno di questo cibo più di me. Ecco qua. Buon appetito. Oh, misericordioso! Ah, puoi parlare? Sì, posso. Sono il re di queste formiche. Grazie mille per averci nutrite. Cosa posso fare per te in cambio? Oh, Vostra Altezza, io ho tutto. In realtà ho più del necessario. Ma ti manca un pezzo della tua anima, il tuo destino. Il mio destino? La principessa Lalum. La leggenda dice che solo un uomo generoso può sposarla. Il mio cuore dice che quell'uomo sei tu. Avrai bisogno di me una volta incontrata. Quindi, tutto quello che devi fare è trovare una formica e chiedergli di trovarmi. Verrò per te. Certo. Ma non capisco cosa sta succedendo. Segui il tuo cuore, amico mio. Confuso, Adam montò a cavallo e se ne andò. Un po' più avanti, vide una tigre che piangeva dal dolore. Aveva una spina infilata nella sua zampa. Adam, senza paura, aiutò la tigre. Grazie. Cosa posso fare per te? Puoi parlare anche tu? Ho giusto visto la formica parlante. Sembra tu abbia incontrato il re delle formiche. Dimmi, dove stai andando? Credo di essere in cerca della principessa Lalun. La leggenda dice che solo un eroe con un cuore puro può sposarla. Ho fiducia in te, amico mio. La principessa che cerchi vive dopo le sette giungle sulle alte colline. Ma come ci arrivo? Un po' più avanti, alla tua destra, troverai un vecchio. Digli che hai incontrato me e il re delle formiche. Ti darà quindi tutto il necessario per trovare la principessa. E ascolta, avrai bisogno di me per finire la tua ricerca. Quindi, tutto quello che dovrai fare sarà chiedere agli alberi di trovarmi. Ed io verrò per te. Di nuovo confuso, Adam ringraziò la tigre e andò a cercare il vecchio. Proprio come aveva promesso la tigre, il vecchio si trovava sotto un albero con un letto di fronte a lui. Adam gli parlò del suo incontro con la tigre e il re delle formiche. Il vecchio fissò negli occhi Adam e sorrise. Ah, la leggenda è vera! Forza, prendi questo letto! Questo è un letto magico! Sdraiati su di esso e digli dove andare! Ti porterà ovunque tu vorrai! Ed ecco una ciotola di pietra! Ti darà dell'acqua ogni volta che lo chiederai! Avrai bisogno di tutto questo per trovare la principessa Lalun! Adam lasciò il cavallo con il vecchio e volò via con la ciotola di pietra sul letto magico. Il letto portò Adam nel regno della principessa Lalun. Era buio e voleva un posto dove riposare prima di andare a palazzo la mattina dopo. All'improvviso sentì qualcosa. Ah, oh, non posso camminare. Oh, signore, sta bene? Mi sono fatto male alle gambe. Vivo molto lontano da qui. Inoltre non posso camminare ed ho molta sete. Adam rapidamente desiderò l'acqua dalla sua ciotola di pietra e aiutò il vecchio a berla. Quindi accompagnò il vecchio fino a casa sua. Oh, grazie ragazzo. Aspetta, non sei di questa città. Chi sei? Il mio nome è Adam. Sono qui per vedere... La principessa Lalun? La principessa Lalun? Eh? Come fai a saperlo? Oh, non sei l'unico. Molti vennero per tentare la sorte e fallirono miseramente. Il re, stanco di tutti questi stranieri, li ha banditi dal suo regno per sempre. Nessuno è autorizzato ad ospitare uno straniero. Non posso darti riparo, nemmeno per un'ora. Capisco. Non ti procurerò alcun guaio. Me ne andrò subito. Proprio mentre il principe stava per andarsene, entrò una luce brillante attraverso la finestra. L'intera città si era illuminata come stelle sulla terra. Adam si precipitò fuori, poiché la casa del vecchio era più vicina al palazzo. Adam poteva vedere chiaramente cosa stava succedendo. Una bella donna, vestita con un abito bianco, andò sul tetto. Sembrava radiosa e pura. La donna aprì gli occhi e vide il principe Adam. Fu amore a prima vista. Si fissarono negli occhi. Ma dopo un po' chiuse tristemente gli occhi e si sedette sul tetto. Adam voleva che lei aprisse gli occhi e lo vedesse di nuovo, ma non lo fece. Lei non aprirà più gli occhi? Vieni dentro, ragazzo. Chi è lei? Perché non apriva più gli occhi? E perché sembrava così triste? Oh, lei è la principessa che cerchi. Ed è triste perché sta aspettando che la leggenda si avveri. Qual è questa leggenda di cui tutti continuano a parlare? La principessa Lalun non è una principessa qualunque. Sai perché non abbiamo luci in questo regno? Perché la principessa Lalun accende tutta la città fino a mezzanotte. Quando è nata, era così bella che una fata l'ha benedetta perché splendesse più luminosa della luna. Ogni notte accende il cielo e la terra, ma la sua benedizione divenne la sua più grande maledizione. Molti uomini hanno provato ad attaccare il nostro regno e portare via la nostra principessa. La fata ha detto che colui che può completare 3 compiti può sposare la principessa. Quali sono questi 3 compiti? Il primo è di estrarre olio da 80 kg di semi di senape in una notte. Il secondo è di combattere 2 demoni contemporaneamente. E il terzo è di battere il tamburo tenuto sulla collina più alta. Intendiamoci, la collina è così alta che quasi tocca il paradiso. Aspetta un attimo. Un esercito di formiche può facilmente distruggere 80 kg di semi di senape. La tigre e io possiamo combattere 2 demoni contemporaneamente. Ebbene, per il tamburo sulla collina più alta? A cosa serve il violetto magico? Il principe Adam aveva preso una decisione. Dopo aver inviato un messaggio tra gli alberi e le formiche per i suoi nuovi amici, si sarebbe arreso alle guardie reali. Sapeva che questo era l'unico modo per vedere la principessa e non dare alcun problema al vecchio. Una volta all'interno del palazzo, il principe Adam vide la principessa Lalun. Non stava brillando come la notte precedente, ma era comunque bellissima. Come osi entrare in questo regno? Non voglio nemmeno sapere il tuo nome. Buttatelo nelle segrete. No, aspettate. Padre, mi sono innamorata di questo estraneo e con il tuo permesso desidero sposarlo. Solo se lo desidera anche lui. Sì, sì, mille volte sì. Ma non sappiamo chi sia. Mi dispiace di interrompere vostra altezza, ma io sono un principe. Principe Adam di Humbertown. Non puoi semplicemente sposare mia figlia. Devi portare a termine 3 compiti. Conosco la leggenda, vostra altezza. Io sono pronto a portare a termine 100 di compiti per sposare la donna che amo. Il re spiegò il primo compito al principe Adam, che lo accettò con un sorriso. Lasciò il palazzo con la promessa di tornare con tonnellate di olio. Quella notte, nel rifugio, Adam ebbe alcuni visitatori. Il re delle formiche e il suo esercito di formiche. Tutte le formiche lavoravano fino al mattino e tutti i semi furono schiacciati. L'olio venne portato al palazzo. Il re, sorpreso, sembrava avere un po' di speranza. Forse questo era l'uomo che era destinato a sposare sua figlia. Quindi spiegò il compito successivo. Quel pomeriggio stesso fu stabilito un combattimento tra Adam e i 2 demoni. Ma invece di entrare nel ring da solo, Adam entrò con la sua amica Tigre. Insieme sconfissero i 2 demoni. La Tigre si inchinò ad Adam e se ne andò. Il re ora era estremamente felice del suo futuro genero. Gli spiegò il prossimo compito. Ma è sulla collina più alta, figliolo. Come ci arriverai? Non preoccupatevi, vostra altezza. Starò bene. Adam prese il suo letto e si sdraiò su di esso davanti a tutti. Volò in cielo mentre tutti lo salutavano eccitati. Passarono le ore, ma non c'era traccia di Adam. Tutti nel regno cominciarono a preoccuparsi. Poi, improvvisamente, ci fu un rumore forte dal cielo, quasi come un tuono. Era il tamburo. Adam aveva raggiunto la cima della collina e stava suonando il tamburo. Poche ore dopo, Adam tornò volando sul suo letto magico. L'intero palazzo esultò per il loro nuovo principe. La leggenda si è avverata! Sei davvero un uomo coraggioso e dal cuore puro. Sono onorato di dare la mano di mia figlia in sposa a te. E io sono onorato di sposare la bella principessa. Così il principe Adam mostrò coraggio e generosità per conquistare l'amore della sua vita, la principessa Lalum. Insieme regnarono su Humbertown con amore e coraggio e vissero felici e contenti.